Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ci vuole un fisico bestiale. Allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli. Sei un atleta. Il mio primo set di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere e per fumare. Sì. 11. 12. Sapete, ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale. Credo sia la nuova ragazza di Skipper. Mi sembra a posto. Non credevo che fosse quello il suo tipo. È vero, Miranda, sei tu il suo tipo. Ma tu l'hai piantato, se non ricordo male. Qualcosa di diverso. Sta andando in palestra per caso. Ci vuole un fisico bestiale. No allenamento, no tono. Buongiorno da Nicoletta. Questo è in sintesi quello che succede ai nostri muscoli, che se non sono adeguatamente stimolati e allenati perdono tonicità, diventano flaccidi, svengono, e a complicare le cose si aggiunge la forza di gravità che non perdona e fa scivolare inevitabilmente i muscoli verso il basso. Succede ai glutei, alla pancia, al seno, all'interno coscia. Vi risparmio, non vado oltre. Invece vi chiedo di dare un giudizio sullo stato dei vostri muscoli. Potete dare un voto da 0 a 5, usare un'immagine di un personaggio, da Woody Allen a Rocky Stallone, o una metafora. Insomma, scegliete voi quello che più vi piace. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Laura Bertelè, ortopedico, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo, Mondadori editore. Buongiorno dottoressa Bertelè, bentornata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E qui in studio con noi abbiamo il nostro, posso dire così? Sì, che puoi dire, sì. Altro. Il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti, ciao Laura. Ciao. Dottor Speciani, massa grassa, massa magra, due aggettivi che fanno la differenza, e non solo dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto per la salute. Per tanto tempo noi ci siamo limitati a considerare il peso e l'altezza, ma anche noi, non addetti ai lavori, negli ultimi tempi abbiamo capito che quello che fa la differenza è la percentuale di massa grassa e di massa magra. Beh, dici così perché Radio 24 è una radio evoluta e quindi questo concetto ormai transita, la differenza tra massa grassa e massa magra. Poi apri il 90% delle riviste di estetica, peso, eccetera, tutto quanto, e purtroppo si ragiona in termini di peso. E la cosa drammatica, perché c'è un lavoro, grammatica bella, è un lavoro che è proprio uscito recentemente, fatto da Brian e dal pubblicato sul Journal of American Medical Association, quindi una rivista tosta, che proprio segna che quando si fanno delle diete ipocaloriche è vero che si perde peso, ma si resta più grassi, cioè perdi muscolo e resti più ciccio, e potenzialmente recuperi poi il peso, mentre le persone che aumentano la prima colazione, aumentano la quantità, stimolano il metabolismo, che è il trucco dell'anti-aging, il trucco della vitalità, il trucco della creatività, delle cose belle, a quel punto mantieni il peso, anche se pesi di più, in realtà c'è più muscolo, sei sicuramente più tonico, eh? In fondo i nostri muscoli non chiedono tanto, avere il giusto rifornimento e essere usati. Dottoressa Bertelè, ne abbiamo tanti, alcuni neppure sappiamo di averli, e sono molto diversi anche nella risposta all'allenamento. Alcuni rispondono bene, diventano belli tonici, ben definiti, guizzanti, altri sono un po' più restii. Io proverei a immaginarli come allievi di una stessa classe. Ci sono quelli che rispondono subito, danno grandi soddisfazioni quasi immediate, altri che ci arrivano ma ci mettono un po', hanno i loro tempi. Vogliamo fare una sorta di appello? Ecco, penso che bisogna avere chiaro che i muscoli sono organizzati in unità funzionali. Ecco, noi abbiamo un'idea che ci sono muscoli distinti. In realtà ci sono dei muscoli che rispondono molto prima all'allenamento, che sono i muscoli che noi consideriamo, noi chiamiamo delle catene, nel senso che sono dei muscoli che sono i più antichi filogeneticamente, sono tendenzialmente già di base tonici. Ecco, questi rispondono fin troppo presto all'allenamento. Proprio perché questi rispondono molto presto, gli altri diventano vittime. Vi faccio un esempio molto semplice, sì. Ad esempio, se noi potenziamo molto i dorsali, gli addominali non riescono più a lavorare. Ecco, oppure se potenziamo sempre nella muscolatura posteriore della schiena, i pettorali non riescono più a lavorare o lavorano male. Quindi dobbiamo soprattutto trovare un equilibrio fra i vari gruppi muscolari. Quindi osservatevi e cercate, se vi allenate, di capire quale tipo di allenamento state facendo e magari troverete delle risposte. Capirete perché, come diceva la dottoressa Bertelé, ad esempio non riuscite ad avere la famosa tartaruga. Ho 48 anni e come tutti quelli della mia età, dopo i 45, mettiamo su quella pancettina rassicurante. Dottoressa Bertelé, contano anche le differenze di genere, anche per quanto riguarda i muscoli. Uomini e donne hanno punti critici differenti, l'abbiamo appena sentito, ma non sono solamente la pancetta o il seno che cade. Sì, in realtà la cellulite si accumula nei punti dove i muscoli lavorano poco e male. Ad esempio, classico negli uomini, appunto, la pancetta, perché quando c'è la pancetta vuol dire che c'è un accorciamento dei muscoli nella zona lombare alta, cioè quella nella zona del diaframma, si intende, nel punto in cui si inseriscono il muscolo del diaframma. Sì. Nella donna invece è più facile avere ad esempio la cellulite sulle cosce, perché tendenzialmente la donna ha, diciamo, il sedere in fuori, per intenderci. Sì. Ecco, quindi che è anche una bellezza, no? Che è anche una bellezza, esatto. Il dottor Speciali concorda. Esatto. Però appunto questo può comportare poi una tendenza ad avere degli adduttori più tirati e quindi l'interno cosce più flaccido e più cellulite nella parte esterna delle cosce. Oppure più cellulite nelle donne, è più facile ad esempio avere le braccia, le cosiddette braccia cascanti. Mm. Ecco, e quindi questo dipende anche quello da una malposizione delle spalle. Massimo, buongiorno. Oh, buongiorno. Oh, buongiorno a lei. Io volevo solo dire che, ecco, io il soprannome che mi sono portato dietro per tutta la vita è stato Salsiccetta o Supplico la Capoccia, quando abitavo. Però carino! Sì, questo me l'ha affibbiato il mio amico Piombo, che era molto delicato nelle espressioni. E, però sì, circa 2 anni fa pesavo 103 kg. Mm. Ho cominciato, per una paura che mi è venuta per un forte dolore al petto, a muovermi un attimo di più e teoricamente dovrei partecipare alla mia prima maratona a Roma. Sono sceso circa 30 kg correndo e cambiando regime alimentare. Questa è un po' la testimonianza del fatto che, secondo me, io ho fatto sempre diete nella vita, però tornavo sempre a ingrassare. Adesso ho applicato delle principi di PNL sostanzialmente e ho cambiato il mio modo di approccio con il cibo e si sono visti dei risultati pazzeschi. Io l'unico mio problema adesso è rassodare quello che si è un po' sbilanciato, quella pancetta che tende a scendere, e perché logicamente si è tolta della massa, ecco. E quindi il mio problema è quello. Capire come fare soprattutto per la pancia. E questa è la domanda dell'ex Supplico alla Capoccia, Massimo da Bologna, che giro subito alla dottoressa Bertelé, mentre il dottor Speciani sicuramente potrà dare delle indicazioni a chi è soddisfatto di una dieta abbinata ad un'attività fisica, ma trova un po' una rilassatezza dei muscoli. Dottoressa Bertelé. Ma a proposito di quello che diceva l'ascoltatore, è molto importante che soprattutto riequilibri la muscolatura posteriore con quella anteriore. Evidentemente ha favorito molto la muscolatura posteriore, quella della schiena per intenderci, e questo a discapito della muscolatura anteriore, che non vuol dire poi mettersi a fare 150 addominali al giorno, perché non serve, ma bisogna proprio fare un lavoro di riequilibrio fra i muscoli dietro e quelli davanti, quindi un lavoro ben preciso di riequilibrio. Che consiste? Bisogna riequilibri così precisi devono essere proprio guidati da un fisioterapista. Da un fisioterapista. Sì, perché da soli è un fai da te pericoloso. Però come spunto, ad esempio, cosa di cui Laura Bertelé è assolutamente esperta, teniamo presente che degli stati di tensione o di paura, e non è casuale che l'ascoltatore abbia parlato di una paura come primum mover, cioè lui si è messo in moto perché ha avuto paura, quindi probabilmente la paura ha fatto parte un po' della sua storia, porta ad un irrigidimento sistematico della muscolatura posteriore. Certo. Questa cosa è una delle cose che a volte la gente con tensione, senza rendersi secondo, quindi senza neanche bisogno di andare in palestra, ha dei muscoli posteriori rigidissimi. Io, se fossimo davanti a un pubblico di ascoltatori, anziché di ascoltatori, di presenti, direi: alzi la mano chi c'ha la cervicale, no? E avremo metà della gente che alza la mano, proprio perché l'irrigidimento posteriore rischia di essere semplicemente congruo col fatto di essere tesi, stressati o preoccupati, no? Quindi bisogna imparare a bilanciarsi. È vero che serve un'individualità di risposta, assolutamente, ma i muscoli che cosa piace oltre che allenarsi in modo equilibrato? I muscoli hanno dei gusti ben precisi. Sì, gli piace da matti avere delle cose buone al mattino presto, ad esempio, proprio perché uno degli elementi fondamentali, poi chi ci segue qui in radio sa che discutiamo pesantemente, si può dire, proprio della ricchezza, dell'importanza della prima colazione, perché lì in quel momento ci sono ormoni che sono pronti a far entrare nel muscolo l'energia, ed è una cosa importantissima. Pensa che se semplicemente appena noi iniziamo a non mangiare al mattino, come fa metà del mondo che prende un caffettino e mezzo biscotto, in realtà la prima cosa possiamo vedere subito nelle urine la perdita di residui di proteine, cioè il muscolo inizia a consumarsi, perché abbiamo una paura bestia, come un milione di anni fa, di restare a digiuno. Quindi il muscolo ha bisogno di energia, bisogna dargli dei segnali di ricchezza. Il muscolo va a crescere quando noi riceviamo, è tipico, segnalo un dato, classicamente può capitare di vedere una persona con un disturbo del comportamento alimentare in palestra che fa 6 ore di fila di, eppure le gambine sottili, le gambette da merla, come le chiamo io. E uno dice: ma perché fai 6 ore di attività fisica? Perché non riceve un messaggio nutrizionale che dice che uno è ricco. Allora, la ricchezza poi la trasformi nel fare muscolo, nel valutare e valorizzare la tua parte ormonale, nell'andare a diventare creativo, nell'esprimere le tue emozioni, nel raccontare poesie alla tua fidanzata, alla tua moglie, alla tua donna, al tuo uomo a seconda, cioè nell'esprimere quel plus, quel più che uno ha dentro. Quindi il muscolo è fatto perché noi ci mettiamo in movimento in modo integrato, come dice Laura, attraverso dei segnali di ricchezza che dobbiamo dare all'organismo. Se vuoi ti cito le mandorle, perché le cito sempre. Sì, mandorle e noci. Non solo proteine per i muscoli, perché uno... Allora, il muscolo si riempie di glicogeno, però abbiamo quindi di uno zucchero particolare. Però ha bisogno, per poter ricevere questo messaggio di riempimento, per poter essere efficiente, di un corretto bilanciamento tra carboidrati, proteine e minerali e vegetali, eccetera. Quindi è quello che diceva Laura prima, che serve equilibrio. Giuri, perché non scegli una di queste carte, ricordando che lo scopo è vincere la macchina, non la capra? Scelgo quella in mezzo. Lei sceglie la carta in mezzo. E quali sono le probabilità che quella carta sia quella vincente? 1 su 3. 3 scelte, una macchina, giusto? 1 su 3, semplice, no? Ora, ecco dove il gioco prende una svolta. Vi mostrerò una delle carte che non sono state scelte. Quindi, a questo punto, cambiare la carta scelta raddoppierebbe le probabilità di vincere l'auto. Vedete, avendo cominciato con 2 capre... è più probabile che la tua prima scelta fosse una capra. Quante sono le probabilità di trovare la capra? 2 su 3. Giusto, quindi è più probabile che sia una capra, meno probabile che sia un'auto. Ed è più probabile che questa carta nasconda l'auto. Vedi, cambiare la tua scelta ti dà 2 possibilità su 3 di vincere l'auto, invece che 1 possibilità su 3 come avevamo all'inizio. Se i muscoli non sono il vostro forte perché magari non vi interessa avere un fisico da palestrato, bene, vi propongo un altro genere di allenamento, quello della mente. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente Assomensana. Professore, buongiorno, siamo pronti. Buongiorno a te Nicoletta, ai tuoi ospiti, al tuo staff e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, anche oggi vi propongo una seduta di allenamento di ginnastica mentale, perché come sappiamo il cervello, così come i nostri muscoli di cui si sta sapientemente parlando oggi, deve essere allenato in tutte le sue capacità. Il cervello ha bisogno di misurarsi con esperienze nuove, e anche se è vero che noi durante la giornata lo teniamo attivo sul lavoro, di fatto gli stimoli che gli arrivano al lavoro non sono tantissimi e molte aree rimangono inutilizzate, per cui è bene impegnarlo con stimoli nuovi in modo tale da attivare tutte le sue funzioni cognitive di cui è dotato. Oggi ho preparato per voi un esercizio di ginnastica mentale riferito al linguaggio. Sì. Al quale ho sentito che avete dedicato una bella puntata su Radio 24. Bravo, bravo, è anche un nostro ascoltatore. Certamente, sempre assiduo. Bravo. L'esercizio che ho preparato per voi serve per stimolare le funzioni mentali dedicate al linguaggio, e quindi quelle che ci consentono di verbalizzare i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, le nostre emozioni, eccetera. Le aree cerebrali, che sono prevalentemente collocate nell'emisfero sinistro per i destrimani, sono almeno tre: l'area di Broca, l'area di Wernicke e il fascicolo arcuato, ma poi ne abbiamo altre dislocate diciamo nell'intera corteccia cerebrale, perché ricordiamo il linguaggio è una funzione evolutiva molto recente e veramente molto sofisticata. L'esercizio che vi propongo è il seguente. Vi chiedo di formulare una breve storia utilizzando, udite udite, solo parole che iniziano con la lettera P. Palermo. Si possono utilizzare gli articoli determinativi e indeterminativi e anche le preposizioni. Semplici articolate. Va bene, facciamo un esempio. Vogliamo fare un esempio. Sì, ecco. Deve essere una frase con un senso compiuto, deve immagino. Deve essere una frase con un senso compiuto. Ecco, vi leggo un breve passaggio di una storia che ha scritto una nostra corsista, dove era richiesto di formulare la storia con le parole che iniziano con la lettera G. Di gatto. Allora, la corsista ha scritto: i gemelli Giovanni e Giacomo gestiscono a Genova una grande giocattoleria sui generis con i genitori Giorgio e Ginevra. Grazie, allora, professor Iannoccari, noi ci sentiamo tra poco. Grazie. A dopo, grazie Nicoletta. Dottoressa Bertelè, sappiamo che fare attività fisica è importante, non sempre però siamo ripagati dei nostri sforzi, anzi in alcuni casi, proprio a causa di un allenamento eccessivo, alcuni gruppi muscolari perdono in elasticità, con conseguente possibilità di lesioni dei muscoli stessi, tendiniti, problemi articolari, oltre anche alla perdita di velocità e precisione nel movimento. Allora, sentite un po' questa scheda che abbiamo preparato con la dottoressa Bertelè e pensateci, intanto poi noi andiamo subito a sentire i mercati e il meteo e ritorniamo insieme, andiamo. Piegati in avanti e toccati la punta dei piedi, ci riesci? E la schiena si lamenta o collabora? Quando ti accovacci tieni i calcagni sollevati o appoggiati a terra, apri le braccia e tieni i palmi in avanti come se dovessi spingere un muro, tira qualcosa? Essere e benessere. Bicipite, trapezio, grande sala, piccolo rotondo, sterno, clido, mazzaga, flessore, sensore, pronatore, grande psoas, brachiale, mediale, deltoide, pettorale. Muscoli Mon Amour, ne parliamo oggi con la dottoressa Laura Bertelè e con il professor Attilio Speciani. Dottor Speciani, abbiamo detto che i muscoli hanno gusti particolari, ma ci sono proprio degli alimenti da evitare? Ma alimenti, direi che marciano un po' contro? Da evitare sono quelli terribili per la salute in genere, nel senso che abbiamo tendenzialmente, mangiando male, il muscolo nutrito male. Possiamo dire, questo è importante, che cibi ad alto contenuto salino, e questo ci anticipiamo alcune considerazioni, possono essere quelli che possono dare un po' fastidio. Perché? Perché trattengono liquidi, quindi a volte noi ci troviamo mangiando pane, formaggio, cracker, grissini e biscottini e aracchi di salate ad avere un trattenimento di liquidi che sono sia purtroppo nelle caviglie, nelle anche, negli occhi eccetera, ma anche dentro nel muscolo. Questo lo dico perché spesso la gente si lamenta e dice: ho debolezza muscolare, prendo degli integratori di potassio. Sì. A volte basterebbe ridurre un po' l'eccesso di sodio, no? Nel senso che i potassio e sodio nell'organismo si controbilanciano, quindi a volte la gente sta mangiando molto salato, ribadisco, pane prosciutto, sì, e in realtà poi dice: ecco, i muscoli li sento duri, li sento dolenti. Mangiando invece, che so, patate bollite ricche di potassio e vitamina C, pasta asciutta senza metterci sopra il formaggio ma mettendoci dentro le mandorle, come si diceva prima, ecco che il livello di sodio cala e quindi abbiamo un miglioramento complessivo. Dottoressa Bertelè, muscoli duri che fanno fatica, noi li abbiamo messi un po' nella nostra scheda quando abbiamo scritto piegati in avanti, provate a toccarvi la punta dei piedi, molte persone non ce la fanno o sentono che la schiena è dolente, oppure quando ci pieghiamo tendiamo a tenere i calcagni compagni sollevati. E questo è anche un po' frutto di un allenamento eccessivo, perché noi ogni giorno invitiamo i nostri ascoltatori a muoverci, ma dobbiamo anche metterli in guardia da un allenamento che non sia equilibrato, che non crei armonia tra queste fasce muscolari di cui lei ci parlava. Dottoressa. Sì, è esattamente così. Io trovo che la gran parte delle persone ha paura di essere debole, penso anche a livello psicologico in questo mondo non facile. Per cui c'è questa tendenza veramente eccessiva di potenziarsi, di rigidirsi, che poi appunto il potenziamento si traduce in mancanza di elasticità. Tra l'altro già i muscoli, soprattutto quelli della schiena, tendono a essere rigidi, senza fare niente di più se non stare seduti e fare un'attività normale quotidiana. Tanto più si irrigidiscono se poi facciamo allenamento in palestra, facciamo potenziamento, pesi, in maniera indiscriminata. E questo soprattutto noi lo vediamo, io curo molti sportivi, negli sportivi, che crea dei danni molto molto importanti a livello dei muscoli stessi, dei tendini, delle articolazioni, dei dischi, ad esempio le ernie, appunto le sciatiche. Bisogna fare molta attenzione. Un conto è fare un'attività moderata, quotidiana, camminare, che sia rispettosa anche dei limiti del corpo che ognuno di noi ha, e un conto forzare di continuo con quest'idea che bisogna essere forti, potenti, avere i muscoli scolpiti, come si dice, che alla fine si diventa solamente molto rigidi. E questo è anche un po' l'anticamera di eventuali problemi, lesioni, stirature, strappi? Eh sì, esattamente, un muscolo rigido è un muscolo che fa male. Cioè, in medicina sappiamo che tutto quello che dà rigidità è patologia, e mentre è salute la mobilità, l'elasticità, la capacità di adattamento a quello che ci viene offerto dall'ambiente esterno. Questo anche a livello psicologico è la stessa cosa. Quindi sarebbe molto molto più importante diffondere un'educazione all'armonia, alla simmetria, all'elasticità, piuttosto che a questa idea di potenziamento che purtroppo ne vediamo tanto diffusa anche nei giovani. Quindi, dottoressa Bertelè, attenzione al dolore che avvertite durante l'allenamento, se siete sportivi appassionati, e a quale altro segnale? Ma soprattutto a questa sensazione di mancanza di elasticità, come dicevamo prima, queste cose molto semplici. Ad esempio, un'altra cosa molto importante è provare ad appoggiarsi al muro con la schiena, la testa tocca dietro. Se non tocca è un segno già di rigidità della regione cervicale molto importante. Cioè, rendersi conto se nell'attività quotidiana incominciamo a sentire come dei dolorini muscolari, della sensazione proprio di mancanza di movimento, di freno, ecco. Abbiamo Maurizio. Buongiorno, complimenti intanto per la trasmissione, perché siete una delle poche trasmissioni che fa cultura e questo vi fa onore. Grazie Maurizio. Detto questo, ho 57 anni, sono alto 1,86 m, ho giocato a rugby praticamente per una vita fino a 40 anni con 5-6 anni in Serie A. Mio coscritto, è un mio coscritto. Sì, però lui è anche un fostaccione, lui. Lui sì. No, senza nulla togliere, a lei. No. Maurizio, mi sembra già, ecco, 1,86 ha giocato a rugby, ci racconti. E poi adesso... giocavo in un ruolo veloce, quindi avevo i muscoli delle gambe molto sviluppati, pettorali e dorsali, e adesso all'età di 57 anni, avendo smesso a 40 anni, ho delle problematiche che per un certo periodo ho cercato di evitare, quindi l'indolenzimento dopo aver finito di giocare, quindi non correre perché ti facevano male le caviglie, le ossa, eccetera. Adesso mi sono per qualche anno un po' tranquillizzato, faccio una vita da manager un po' sedentaria, quindi molta autoguida e molta scrivania, faccio pochissimo sport, un po' di nuoto d'estate, un po' di snowboard d'inverno. Il problema grosso è che partono i cervicali, mal di schiena, indurimenti, ma fondamentalmente decade tutto il tono muscolare. Non ho eliminato praticamente i pranzi, non mangio più, lavoro e basta, al mattino colazione leggera e sera disastri a tavola. La domanda era, siccome il tono muscolare cade, è giusto, è corretto riprendere un'attività fisica per ritornare, non dico ai vecchi splendori, ma comunque per muovere un po' tutto quanto, o bisogna farlo con molta calma o cosa fare, perché effettivamente certo, non so cosa fare. Certo Maurizio, è un po' il problema delle persone, dottoressa Bertelli, che sono stati sportivi veri e poi insomma per una serie di ragioni smettono. Come si fa ad appassionarsi di nuovo e a farlo naturalmente bene, in modo da ottenere dei risultati? Ma innanzitutto pagano il fatto che c'è stato un eccesso di potenziamento non magari non adeguatamente equilibrato, ma l'importante è che da una certa età in poi uno faccia invece tutto un lavoro per rendere questi muscoli che si sono irrigiditi e che sono diventati veramente delle corde. Io ho dei pazienti appunto che hanno fatto rugby per anni, che veramente hanno dei muscoli di pietra nella schiena, nei glutei. Ecco, è molto importante riuscire a riammorbidirli perché possano fare un'attività sportiva, motoria, di piacere, ma senza avere dei muscoli che fanno degenerare le articolazioni. Ecco, quali sono le attività su cui lei penserebbe di iniziare per riprendere un po' il passo? Guardi, innanzitutto è il passo, come ha detto lei, nel senso è camminare velocemente, non tanto correre, ma camminare molto, in modo di rimettere in movimento i muscoli in maniera fisiologica. Fare magari i lavori proprio specifici di riequilibrio muscolare, come dicevamo prima, e poi io credo molto nelle attività marziali tradizionali come il Tai Chi, che sono tonificanti ma non irrigidenti, ecco, quindi che fanno riprendere il tono ai muscoli senza dare rigidità, cioè anzi portando elasticità. E dopo poco comunque si ritrova il piacere, perché facendo attività fisica si scatenano le endorfine che ci piacciono molto, dottor Speciale. Cioè, però bisogna riprendere quello che abbiamo detto prima parlando della persona con disturbi del comportamento alimentare, cioè l'assenza di nutrizione al mattino. Sì. Il mio coscritto qua ha detto che al mattino fa colazione leggera, vuol dire che non mangia. E poi alla sera disastro. Alla sera mangia i tavoli, no? Allora, l'elemento di prima colazione al mattino entro un'ora, ricca, è uno dei segnali più potenti per lo stimolo del GH, che serve ormone che ci fa fare i nostri muscoli in maniera fisiologica. Se questo non c'è, il muscolo cala. Allora non è pensabile pensare di mettersi a camminare, muoversi, fare attività sperando di avere muscolo e non fare prima colazione al mattino. Significa lottarsi contro. Quindi questo, dai, mi raccomando, bisogna appassionarci. Ci sono tante persone che intorno agli ANTA hanno una sorta di rinnovata passione per l'attività sportiva e diventa una grande passione, tanto che una nostra ascoltatrice mi ha scritto proprio nei giorni scorsi, e ne parlavamo con Laura Vanossi, ci scriveva: mio marito mi tradisce con la corsa, allenamenti sempre più frequenti. E di questo parliamo tra poco insieme al professor Emanuele Iannini, che è in linea con noi. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. A voi ben ritrovati. Insomma, la passione, si dice, Radio 24 si sente, ma la passione è scoppia di nuovo magari per la corsa, per la bici, e questi uomini ma anche donne la frequentano con una certa assiduità. Essere e benessere. Stregati dalla corsa, dalla bici, dalla palestra, una passione contagiosa che colpisce uomini e donne intorno agli ANTA, che si misurano con sedute di allenamento sempre più ravvicinate. Se di tradimento si può parlare, professor Iannini, è un tradimento che ha i suoi vantaggi però. Ma io direi che è proprio un giano con due facce. Da una parte c'è quella dei vantaggi che si hanno nell'attività fisica, che rimbalzano perfettamente a letto. Una cosa che abbiamo molto chiara dalla letteratura scientifica e delle tante cose che si possono fare, riprendere l'attività fisica regolare è quella che probabilmente meglio impatta sulla performance sessuale di lui e di lei. Quindi è, diciamo, un amico del sesso. Ma succede, il caso a cui faceva riferimento lo dice chiaramente, l'espressione "mi tradisce per una corsa" è un'espressione vera in realtà, perché soprattutto quando ci si avvicina alla mezza età, sempre più spostati in avanti, ma prima o poi arriva anche la mezza età, ecco, ci possiamo trovare delle condizioni di coinvolgimento anche psicologico nei confronti di questa ripresa dell'attività sportiva, che diventa una sorta di sostituto, di sottrazione di quei contenuti di condivisione, di coppia, che sono assolutamente essenziali. La ricetta c'è in realtà, ed è quella magari di andare in palestra insieme, oppure di incontrare in palestra l'anima gemella. Perfetto, grazie professor Iannini, è sempre un piacere averla con noi. È un sobillatore, trovare l'anima gemella. Se uno non ce l'ha, nel senso. Dottoressa Bertelè, ginnastica dolce può avere quella che noi consideriamo anche lo stretching o sedute di yoga, sono indicate a tutti oppure possono avere proprio come la corsa, la bici, la palestra anche dei rischi? Per la ginnastica dolce no, è indicata a tutti, basta che piaccia, perché per alcune persone la trovano troppo lenta, sì. Soprattutto quelli molto dinamici, però è indicata per tutti. Lo yoga ha degli effetti negativi, può dare delle problematiche a livello cervicale, a livello della cerniera lombosacrale, delle anche, quindi bisogna farlo comunque con prudenza, perché noi occidentali siamo molto più rigidi degli orientali. Quindi mentre il camminare, muoversi, il ballo, cioè, può dare piacere di muoversi senza avere gli effetti negativi. Ecco, una cosa bisogna tenere sempre presente è anche il discorso che la forza muscolare può essere modificata dall'intolleranza alimentare di cui il dottor Speciani è ultra specialista, perché effettivamente anche quello può modificare la nostra capacità di movimento. E quindi bisogna fare attenzione. Abbiamo Paola dalla provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Paola, ci parla dei muscoli o ci fa la frase? La frase, direi. Allora, aspetta, ce l'abbiamo il dottor Iannoccari? Sì. Ok, andiamo Paola con la frase. Per Piacenza passeggiano pochi piccoli pagliacci, palleggiando e passandosi palloni e palline. Dottor Iannoccari. Benissimo, che inizia con la P, Paola. Che inizia con la P, quindi abbiamo giocato in... Vede come... Vede, chi fa una buona colazione il professor Iannoccari. Professor Iannoccari, ma io so che abbiamo tempo per mettere anche un allenamento di calcolo. Benissimo, allora affiniamo le nostre capacità di calcolo, perché l'esercizio che propongo è il seguente. Dobbiamo raggiungere il risultato di 8... Sì. Utilizzando i numeri 5, 4, 3, 2, 1, mettendo insieme questi numeri e utilizzando le operazioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, soltanto una volta. Quindi possiamo moltiplicare, dividere, sommare, sottrarre ciascuno di questi numeri con gli altri, sì, per ottenere il risultato di 8. Quindi i numeri che abbiamo a disposizione 5, 4, 3, 2, 1, dobbiamo usare le quattro operazioni, il risultato è 8 e dato che tutto cade, dottor Speciani, anche i muscoli del viso, ahimè, io ho coinvolto il professor Ernesto Di Pietro. Buongiorno professore. Ma buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e un omaggio ai suoi illustri ospiti che sono veramente persone eccellenti. Grazie professore. Osteopata che ci suggerisce qualche esercizio per tirare su un po' le guance, insomma per non far cadere la faccia giù, ecco, diciamo la verità, perché gli zigomi scendono, le guance diventano un po' pendule, abbiamo ce ne fa due semplici che possiamo fare, certo, tanto che lei... Certo. Assolutamente sì, sempre considerando una cosa, considerando che quando io vedo una macchia di umidità su un muro, posso sì imbiancare quel muro, ma molto meglio andare a capire qual è il rubinetto che perde. La stessa cosa vale per il nostro viso. Se abbiamo una muscolatura che poco tiene sul viso, ce ne accorgiamo da qualche ruga in più, da un viso un po' spento, il rubinetto che perde probabilmente è altrove, e potrebbe essere dalla parte psicologica, se vogliamo, no? Quando sì, noi vediamo un attore, come fa a farci capire che è felice piuttosto che tristemente recita? Dal suo viso. La stessa cosa avviene in noi. O comunque da una postura non corretta. Quanto per esempio un dolore cervicale o dei trapezi, quei muscoli che sono dietro le spalle, portano ad avere un viso sempre imbronciato e avere un'alterazione dell'utilizzo di quei muscoli. Detto questo... Facciamo un esercizio in un minuto. Un esercizio in un minuto, facciamolo con due acidi d'uva, se vi piace. Sì, mi piace molto. Ok, o con due piccole sfere commestibili, si intende, possibilmente della frutta che poi possiamo anche mangiare. Mettiamo e iniziamo con le rughe nasolabiali, possiamo metterli tra la gengiva e il labbro, infilarli sotto, come se volessimo stirare e gonfiare proprio quelle rughe nasolabiali. A che cosa serve? Serve ad irrorare di sangue quella zona della cute. e a utilizzare dei muscoli che di solito non utilizziamo in modo corretto. Per esempio il muscolo risorio, e cito questo perché ha un bellissimo nome, dall'idea del ridere. Che fa bene anche al cuore, certo. Assolutamente, sì. E questo è un primo esercizio che possiamo fare, basta tenere, non serve farlo per tanto tempo, serve farlo più volte al giorno. Se non abbiamo gli acini d'uva possiamo anche spingere con la punta della lingua, va bene uguale. Infatti è quello che stavo facendo anche il dottor Speciani quando lei suggeriva l'esercizio. Mi permetto di suggerirvi sempre cose che possiamo fare facilmente. Sì. Più o meno tutti una bottiglietta da mezzo litro d'acqua ce l'abbiamo. Sì, ce l'ho proprio allora, qua. Benissimo, allora provi a metterla sotto il mento, appoggiata sul suo sterno, e a tenerla su senza le mani. No. E mi dica se ha dei dolori. Insomma, non riesco neanche a tenerla su, quindi ecco, forse è grave. Vede, vuol dire che c'è qualche problema che arriva da altrove, che possono essere anche i denti, Fatevi vedere dal vostro dentista anche per questo. Quindi teniamo la bottiglietta tra il mento e lo sterno, e poi possiamo anche passarla sulle spalle, vero? Bravissima, tenerla a destra, dal viso sulla e a laterale, sinistra. Spalla a destra e spalla a sinistra. Grazie professor Di Pietro, grazie anche al dottor Speciani e alla dottoressa Laura Bertelè. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre torna lunedì. Buona giornata e buon weekend.